Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 24 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 29 marzo dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino, e la domanda di oggi, il pensiero di oggi, quello che durante questa settimana mi ha svegliato un po' il pensiero, che come ormai penso abbiate capito è vagabondo, e quindi questo pensiero è stato svegliato dalle parole, dai cliché, dalle cose che sono incanalate e che vanno in una direzione indipendente da noi, indipendente dalla nostra volontà, chiaramente. E cosa è successo? Ora sto un po' meglio, però mi sono ammalato, bene, direte, e chiaramente ci sta il male di stagione, l'influenzetta, la febbriciattola che è in giro, le allergie di primavera, ci mancherebbe altro. Fortunatamente fino ad adesso non ho mai sofferto di allergie. Fatto sta, cosa è successo? Di fatto mi sono lasciato fregare, perché chiaramente anche il vostro speaker vagabondo è mica è perfetto, ci mancherebbe altro, cioè è qui a dirvi delle cose perché in primo luogo le dice a se stesso, come sempre, perché in primo luogo dicendole a voi cresce lui, e se cresce lui, che chiaramente io parlo in terza persona, nemmeno fossi Giulio Cesare, e chiaramente se io cresco dicendovi delle cose, probabilmente contribuisco in qualche modo anche a far crescere voi, e quindi in un certo senso, in un certo modo, la risonanza morfica di quello che succede, di quello che io faccio, si manifesta e si dipana fino a voi che mi ascoltate. Quindi serve a me, perché perlomeno serve a voi, e viceversa, chiaramente win-win. Come si fa a far funzionare le cose? Win-win, vinco io se vinci pure tu, e viceversa. E chi ragiona cercando di prevaricare su un'altra persona per avere un mero ritorno materiale immediato, sì, potrà vincere nell'immediato, sì, che ne so, quello potrà avere dei soldi, del denaro, che tanto ormai in questo mondo tutto si misura col denaro del Monopoli, perché ricordate, il denaro che ci danno in mano è come il Monopoli, quello del Monopoli, carta colorata, denaro, sono numeri su un computer, quindi basta spostare una virgola, aggiungere uno zero e succede tutto. Comunque questa è un'altra storia. Fatto sta, win-win, dicevamo, quindi non cercate di non fare prevaricazioni sulle altre persone per avere dei ritorni, perché questo non è un win-win, sarebbe un win-lose, vale a dire vincete voi facendo perdere un'altra persona, ma chiaramente questa cosa probabilmente ripercuoterà contro in un modo piuttosto che in un altro. Non è che chiaramente dice sì, ma non è che se io approfitto di una situazione per avere a scapito di un'altra persona, che ne so, 50 euro in buoni benzina, cioè non è che poi mi si incendia la macchina. Non è detto, magari sì, ma magari non è per quello. Cioè quello che poi sconteremo è non sappiamo come avverrà, quindi potrebbe essere nei modi più disparati, che proprio non c'entrano niente con quello che è l'argomento del win-lose che avete messo in pratica. Ma se accontentandovi di poco, però vincete voi e aiutate a vincere, a far vincere anche un'altra persona, bene, questo vi ritornerà con gli interessi. prima o poi, sempre nello stesso modo, vale a dire che non sappiamo come vi ritornerà, non è dato a sapere, però questo ritornerà. Tutto questo preambolo, chiaramente, perché cosa c'entra con l'essersi ammalato e essere fregati dalle parole? Bene, c'entra in misura che quando ci dicono una cosa noi gli andiamo dietro per convenzione, per cliché, e in un certo qual modo, in questo caso, non adoperiamo il win-win. È una cosa un po' metaforica, va un po' assimilata, però cerco di farvela passare. Vale a dire, se fate i ganassa, ad esempio, quelli che a Milano chiamano i ganassa, perché magari, che ne so, da altre parti li chiamano sboroni, da altre parti li chiamano i tuttologi, da altre parti li chiamano i sapientini, insomma, chiamateli come vi pare, chi li chiama bischeri, quando facciamo questa cosa non adoperiamo un win-win, ma tentiamo di vincere noi, generalmente nei confronti di forze a noi superiori, e chiaramente questa cosa ci viene fatta pagare con gli interessi e al volo. Siccome per l'appunto mi è capitata, ma nemmeno non lo sapessi, perché sono qui che ve lo dico perché lo so, ma nonostante questo ci sono caduto, qual è stato l'input del mio errore? L'input è stato: a 21 marzo è primavera, dunque cosa ho fatto io che non è stato win-win? Sì, vabbè, è primavera, ok, però il clima e tutto quanto, mi sono andato a riposare un pomeriggio, avevo bisogno di un po' di riposo, e sono andato alla fine in mutande a letto, come si fa d'estate quando è caldo. Beh, è primavera, era un pomeriggio effettivamente caldo, e quindi sono andato a riposare come se fosse estate. E cosa è scattato dentro di me? Chiaramente in maniera incosciente, io questo l'ho realizzato dopo, mi è venuto di fare, detto alla milanese, il ganassa, vale a dire: te lo faccio vedere io, lo prendo di tacco, ormai è primavera, prendo di tacco il clima, prendo di tacco tutto, vado a letto in pantaloncini anche di notte. Sì, lì per lì si stava bene, mi son svegliato il giorno dopo con un raffreddore incredibile. Chiaramente, come mi è stato fatto notare, ci sei te, cioè non è che è chi ha detto è primavera, sì, che ti ha costretto ad andare a letto così, è vero, e sono io, infatti è mio la responsabilità del fatto che mi sia preso un bel raffreddore e tutto quanto. Però per cosa, per quale motivo? Perché mi è venuto di fare il ganassa, mi è venuto di fare il bischero dopo aver sentito questa cosa della primavera, in questo periodo dell'anno in cui il pomeriggio è caldo, però la sera ancora è fresco, cioè quando va via il sole non è che si può stare fuori in maglina a maniche corte, per esempio, mentre magari di giorno, in questo momento, sì, riusciamo a farlo, riusciamo a stare anche bene. E allora io cosa ho fatto? Ho messo in pratica incoscientemente un win-lose, vale a dire: te lo faccio vedere io come si fa e ti frego, e chiaramente subito è arrivata la legge del contrappasso e mi sono preso il raffreddore. Quindi attenzione, non fatevi fregare con le parole, dalle parole. Attenzione, è come quando ci dicono: quest'anno caldo record, quest'anno freddo record, tutti gli anni ce lo dicono, che è un record ogni anno, è poco credibile. Quindi non cerchiamo di non farci fregare dalle parole, perché questo probabilmente è uno dei motivi per i quali ci impicciamo di più. Una volta può essere raffreddore, ma a volte, come succede spesso, no, che uno si fa il programma, si fa il film delle cose, dice: ah sì, vedrai che questo giorno andrò a fare questo viaggio qua e là, poi magari lo dice nei giorni in cui ci sono da regolare, secondo lo zodiaco ci sono da regolare dei conti verso queste persone, e per l'appunto erano anche i giorni in cui io ho pensato quella cosa che mi ha fatto venire il raffreddore, per cui dopo mi è venuto il raffreddore, non che mi ha fatto venire il raffreddore. E ad esempio, sì, andrò a fare questo viaggio, l'ho visto succedere, e poi brum, incidente, braccio rotto, e non solo non ha fatto il viaggio, ma c'ha pure ancora ancora da scontare dei giorni, quindi attenzione con le parole, attenzione con le parole e con i pensieri. E conosco persone, c'è una persona che è molto presente con questo giochino, che si fa sempre un sacco di film, e vedrai che faremo, e vedrai che sarà, e vedrai succederà, e vedrai di sotto, e vedrai di sopra, e poi al 90% delle volte quello che vorrebbe fare non riesce a farlo per i motivi più assurdi, per i motivi più imponderabili. Quindi attenzione, perché chiaramente l'universo in cui viviamo non è cosa nostra, non è casa nostra, è casa nostra nel senso che ci ospita, ma è alla fine è una cosa vivente che ci rimanda indietro le cose a dispetto delle nostre azioni, ma non solo delle nostre azioni materiali, ne abbiamo parlato anche in qualche puntata scorsa, quindi il win-win, ma anche del pensiero, come è nel mio caso. Quindi attenzione ai pensieri, attenzione a quello che diciamo e a quello che facciamo. E nuova rubrica all'interno del Vagabondo in giro per il mondo. Mi è capitato fra le mani un libro molto interessante. Alla fine il titolo di questo libro è Il vero cafone. È un libro che ti prende veramente a pugni in pancia, quantomeno a me mi ha fatto questa impressione, perché parla di noi, parla delle nostre cattive abitudini, delle nostre abitudini da cafoni che non ci rendiamo conto, ma in realtà lo sono. E quindi quando ti mette di fronte alla nuda e cruda verità delle cose che facciamo, è chiaro che ci sentiamo un po' presi a cazzotti in pancia, però questo ci aiuta a far pensare. E l'idea mia leggendo questo libro è di, chiaramente non copiando il libro, chiaramente prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni, però di mettere questa rubrica all'interno del Vagabondo per farvi così prendervi un po' anche io a cazzotti in pancia, perché fa bene. Quindi attenzione, se vi riconoscerete nel cafone della settimana, il cafone vagabondo, questo mi piace chiamarlo così, e se vi riconoscerete nel cafone della settimana, bene, vuol dire che avrete preso un bel cazzotto in pancia e magari vi aiuterò a pensare un po' di più. Se invece non vi riconoscerete in questo cafone, state tranquilli, prima o poi toccherà anche a voi. E il cafone di oggi è proprio quello che ti capita di incontrare, che si nega le possibilità. E come fa a negarsi le possibilità? Bene, ti dice: che libro stai leggendo? Sto leggendo Il vero cafone. E chi è che l'ha scritto? L'ha scritto Vittorio Feltri e Massimo Parente. Vittorio Feltri, Massimo Parente, ma lo sai chi sono? Vittorio Feltri è stato un direttore di un giornale, politicamente così, di sotto e di sopra. Sì, ma che vuol dire? Mica è qui, ha scritto sto libro per farmi il lavaggio del cervello e per insegnarmi politicamente come pensare? Assolutamente no, hanno scritto un libro che parla di noi, parla della società, e quindi non c'entra assolutamente un cavolo. Quindi che me ne frega a me se l'ha scritto Vittorio Feltri piuttosto che Vittorio Zucconi, ad esempio, che mi interessa? Cioè, mi dovrei negare una occasione di crescita e di conoscenza solo perché il libro l'ha scritto un giornalista che è politicamente lontano da me? Non ha assolutamente senso, sarei un vero cafone. Quindi attenzione se fate questo tipo di ragionamenti, perché siete voi i cafoni di questa settimana. E con questo, anche per questa settimana, è tutto. La 24esima puntata di Vagabondo in giro per il mondo termina qua. L'appuntamento è come sempre sulle frequenze di Radio Big World per la prossima settimana, e nel frattempo, cari amici, siate saggi.